GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si allarga l'indagine su una bomba riaperta dalla Procura di Trieste. Oltre agli 11 indagati, un'altra quindicina di persone dovrebbero consentire l'acquisizione dei loro DNA. Si tratta di persone già sospettate all'epoca delle prime indagini e sono tutti residenti nelle province di Pordenone e Udine. A Muggia ieri sera una rissa nell'Androna che dalla stazione delle Corriere porta al supermercato Despar. Almeno 5 giovani coinvolti, 2 i feriti, uno con fratture a tibia e perone. Con una convention sull'idea di Europa, il PD ha avviato la campagna elettorale per il rinnovo in giugno dell'Assemblea di Strasburgo. Provenzano, Cuperlo, Serracchiani e alcuni dei partecipanti alla giornata di riflessione in corso a Trieste. La Lega formalizzerà le candidature il prossimo 5 aprile con una conferenza stampa. A Lignano, prima giornata del primo di 2 fine settimana di Boat Show, 6ª edizione della Fiera della Nautica da Diporto. Il solenne pontificale in Duomo e poi la consegna di una benemerenza conferita dalla città, così Gorizia festeggia i suoi patroni, Sant'Ilario e Taziano. Il premio è stato consegnato alla geografa Maria Paola Pagnini per l'intuizione di creare proprio qui il corso di laurea in scienze diplomatiche nel 1989. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. 11 indagati più altri 15 di cui la magistratura triestina intende acquisire il DNA. È la novità sull'inchiesta Una Bomber portata avanti dalla procura, riaperta dopo le richieste del giornalista Marco Maisano e di 2 vittime degli attentati, Francesca Girardi e Greta Momesso, che rimasero ferite quando avevano 9 e 8 anni. Sarebbero negative le prime risultanze delle nuove analisi del DNA, almeno per il principale sospettato dell'epoca nel caso Una Bomber, l'ingegnere Elvo Zornitta di Azzano Decimo, scagionato nel 2009. A dirlo il suo legale, Maurizio Paniz. I miei periti mi hanno confermato che per gli accertamenti che sono stati espletati fino ad oggi non emerge nulla di rilevante. Dopo la riapertura del caso l'anno scorso, su richiesta del giornalista Marco Maisano di 2 delle vittime di Una Bomber, Francesca Girardi e Greta Momesso, i periti incaricati dal GIP non hanno ancora depositato le loro relazioni e quindi l'udienza fissata per lunedì prossimo disporrà un rinvio a nuova data. Risultano già acquisiti i DNA di altre 10 persone oltre Zornitta. Non manca tuttavia un colpo di scena. Ai periti verrà chiesto di prelevare il DNA ad altre 15 persone, ipotesi di indagine già ventilata un anno fa e sulla quale la procura chiederà di insistere. La conferma arriva dal procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo. Si tratta di persone comuni su cui altre procure, tra le quali Udine e Pordenone, avevano già indagato senza esito negli anni passati. La speranza degli inquirenti è che l'indagine possa prendere nuova velocità. In caso di esito negativo, il passaggio successivo potrebbe essere una nuova archiviazione. Ma non possiamo dare l'impressione di arrenderci senza aver tentato prima tutto il possibile, il commento del procuratore De Nicolo. Ancora Maurizio Paniz. Eseguano pure tutti gli accertamenti che vogliono, perché ho tutto l'interesse che la verità, se possibile, emerga. Mi pare molto strano, peraltro, poter ipotizzare un accertamento oggi a distanza di circa 30 anni da quando sono iniziati i fatti gravi addebitati ad Una Bomber. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un anziano è deceduto a causa di un malore che ha provocato l'uscita di strada dell'auto su cui era alla guida. Il fatto è avvenuto alle 10.30 a Ronchis di Latisana. La vittima aveva 83 anni. A causa del malore l'auto è finita contro un palo, ma la dinamica di quanto accaduto è ancora in via di ricostruzione. Ancora una rissa, questa è avvenuta nella notte a Muggia, tutti i triestini e i giovani coinvolti in ospedale sono finiti in 2 e uno con varie fratture agli arti. Ci vorranno le immagini delle telecamere del supermercato che danno esattamente sulla via San Giovanni per chiarire la dinamica di quanto è accaduto ieri sera poco dopo le 21 a Muggia, nella via che porta al Despar ma anche al giardinetto pubblico in mezzo a un complesso condominiale di via San Giovanni. Immagini già a disposizione della questura. Certo è che, come ci ha detto il titolare di un buffet che ha la porta di servizio che dà su via San Giovanni, ieri sera, poco dopo le 21, dei ragazzi feriti hanno bussato alla porta chiedendo aiuto. Dai primi elementi e testimonianze raccolte dalla polizia, gli aggrediti sarebbero 3 e 2 gli aggressori. E nei racconti degli aggrediti compare anche un bastone. Una delle vittime ha riportato la frattura della tibia e una contusioni e escoriazioni. Uno di loro, anche dei precedenti penali, tutti e 3, sono residenti nel comune di Trieste e questo confermerebbe anche quanto raccontano i condomini che abitano vicino al giardinetto pubblico, lamentando che un ritrovo notturno di adolescenti e giovani adulti provenienti anche da fuori Muggia che, approfittando dell'oscurità della zona, trafficano in sostanze non lecite. In questa fase però la polizia ignora quali sarebbero le motivazioni del contrasto. Muggia, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo con la cronaca. Un cittadino italiano residente nell'Udinese giovedì scorso è stata inflitta la misura cautelare degli arresti domiciliari poiché gravemente indiziato di aver ceduto il 1 marzo una pistola calibro 22 rifornita di 6 proiettili a un cittadino pakistano che intendeva punire la ex compagna, a suo dire colpevole di averlo tradito. Quest'ultimo era stato arrestato lo stesso giorno al casello di Udine Sud, dove era stato sorpreso con l'arma in tasca. L'italiano è stato denunciato per l'illegittima cessione della pistola appartenuta a un congiunto, oltre che per l'omessa denuncia all'autorità della disponibilità dell'arma. Decisi dal giudice per le indagini preliminari di Udine gli arresti domiciliari per impedire la reiterazione del reato. Il sindacato lavoratori della polizia, il SILP CGL, denuncia le carenze d'organico negli uffici di polizia del Friuli Venezia Giulia e con una nota si dice pronto alla mobilitazione. La situazione è insostenibile, serve un concorso regionale. A Ronchi è impossibile gestire il potenziamento dei voli, vi si legge. E poi c'è la questione dell'età media del personale in servizio, che supera i 54 anni. L'emergenza organici nella polizia di Stato penalizza in particolare l'operatività delle specialità, dalla stradale alla Polfer, dalla polizia di frontiera alle squadre impegnate nei controlli aeroportuali, scrive Patrick Sione, segretario del SILP. Le assegnazioni di personale del 2023, aggiunge, sono già state più che azzerate dai pensionamenti, per cui la situazione si è ulteriormente aggravata rispetto allo scorso anno. Per questo si propone l'indizione di concorsi regionali basati sul fabbisogno reale di ogni territorio. Una convention lunga l'intera giornata per elaborare e mettere a confronto idee sull'Europa del futuro. Per il Partito Democratico è in qualche modo l'avvio della campagna elettorale per le europee dell'8 e 9 giugno. Ma non solo i Dem mettono i ferri in acqua, movimenti anche in vista delle candidature nel collegio del Nord-Est sono in atto anche nel centrodestra, oltre che nei 5 Stelle. Le europee più importanti forse di sempre, perché in campo ci sono due visioni di Europa diverse e inconciliabili. E la prospettiva illustrata dal Partito Democratico nell'incontro organizzato a Trieste del titolo per un'Europa libera, forte e giusta, in cui anche se in modo non ufficiale si scaldano i motori per le prossime elezioni di giugno. Per la segretaria regionale Caterina Conti, che ha aperto il convegno, per l'Europa serve un cuore a misura di gigante ed è necessario riprendere il processo di integrazione guardando a est. Folta la presenza di big nazionali e del territorio, da Cooperlo all'ex ministro Provenzano, la segretaria del partito Elly Schlein è attesa per un collegamento a metà giornata, mentre nel pomeriggio arriverà il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, nome emerso nei giorni scorsi tra quelli dei possibili candidati. Che siano elezioni di particolare importanza è convinto anche il senatore della Lega Marco Dreosto, segretario provinciale in Friuli Venezia Giulia. Ieri il suo partito ha tenuto un incontro a Porcia, presenti i 3 candidati quasi certi come la sindaca di Monfalcone Cisin, l'europarlamentare Lizzi e l'assessore regionale Zannier. Il timbro dell'ufficialità non c'è ancora, ma sembra solo un passaggio formale. Il 5 aprile la Lega terrà una conferenza stampa a Trieste, dove scoprirà la lista dei candidati. Intanto Fratelli d'Italia una candidatura ufficiale ce l'ha ed è quella del sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, mentre nel mondo dei 5 Stelle si aspetta ancora la consultazione con la base, le parlamentari, con cui verrà decisa la lista dei candidati, consultazione cui è sicuro l'europarlamentare Pignedoli si ricandiderà. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Un dispensario farmaceutico con annesso un ambulatorio per controlli, visite mediche ed altre prestazioni sanitarie di base. È stato inaugurato stamattina a Treppoli Gosullo. La struttura fa capo all'azienda sanitaria friulana. Doppio l'inaugurazione a Trepoli Gosullo di due presidi importantissimi per la cittadinanza, il dispensario sanitario e l'ambulatorio medico. Chiuso da oltre 3 anni la vecchia farmacia, i cittadini erano costretti a spostarsi nelle vicinanze. Grazie all'impegno dell'amministrazione comunale e al sostegno di quella regionale e dell'ordine dei farmacisti, in pochi mesi è stato possibile riaprire un importante presidio. Differente la situazione dell'ambulatorio, dove il vecchio medico era andato via per lasciare scoperto il posto per oltre 6 mesi. Grazie alla scelta di vita di un medico di origine ungherese con anni di esperienza al 118 e in Toscana, i cittadini di Trepoli Gosullo hanno nel territorio un riferimento sanitario. Trepoli Gosullo, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:41, passiamo al meteo. C'è nuvolosità variabile su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 13,5 gradi, a Udine 14, a Pordenone 14,5, a Gorizia 16, in area montana Piancavallo 7, Sappada 10 gradi, Forni di Sopra e Tarvisio 11,5, a Tolmezzo 13, in quota su Monte Zoncolan 4, su Monte Lussari 3,5, sulla costa grado 14, a Legnano 15,5. Previsioni nel pomeriggio ampie e schiarite, ma sulla zona montana e sull'alta pianura saranno possibili dei rovesci sparsi. A Legnano è in corso la prima giornata del Boat Show, fiera della nautica da diporto, giunta alla 6ª edizione, che si terrà anche nel prossimo fine settimana. Il settore del turismo nautico genera in regione 2.000 posti di lavoro e interessa un bacino d'utenza potenziale di circa 60.000 turisti. È stato inaugurato poco fa lungo la Darsena del Porto Vecchio di Lignano Stabiadoro il 6° Lignano Boat Show, uno degli eventi di riferimento per il settore nautico regionale. Presenti tra gli altri l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Un movimento, quello nautico, in costante crescita. Basti dire che rispetto al periodo pre-Covid, quindi al 2019, si registra un più 20% di presenze nelle oltre 20 marine del Friuli Venezia Giulia su 130 chilometri di costa. Lo stesso assessore Bini ha per questo ricordato la volontà della regione di arrivare a un nuovo testo di legge unico per le marine in collaborazione con le associazioni di categoria e i portatori di interesse del territorio, realizzando una mappatura delle strutture da diporto regionali, delle loro necessità e delle loro potenzialità di sviluppo della fascia costiera regionale, anche in relazione ai percorsi di navigazione della litoranea veneta. Il Lignano Boat Show, che è organizzato dal Comune di Lignano insieme all'ISAGEST e all'Associazione dei produttori nautici di Aprilia Marittima, andrà avanti ancora domani e poi il prossimo weekend, il 23 e il 24 marzo. Lignano Sabbiadoro, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Giornata inaugurale della 30ª edizione del Festival Letterario Dedica, che quest'anno ha come protagonista lo scrittore e giornalista spagnolo Arturo Pérez Reverte. La consegna del sigillo cittadino all'autore avverrà alle 16:30 al Teatro Verdi di Pordenone. Ma lo scrittore già in mattinata ha avuto un primo contatto con la stampa ed ecco un pezzo registrato durante il suo intervento. La guerra è uno stato naturale. La guerra è uno stato naturale. In Occidente credevamo stupidamente che la guerra fosse qualcosa di strano che avevamo emarginato dalle nostre vite. Quando si legge e si guarda indietro, ci si rende conto che da Troia ad oggi è cambiata solo la tecnica per distruggere una città. È lo stesso meccanismo. Cioè, l'uomo, animale pericoloso che affronta altri uomini, risolve i suoi problemi con la violenza e secondo la legge del più forte. Il peccato dell'Occidente che lo ha dimenticato, peggio ancora che vogliamo dimenticarlo. E come ci dimentichiamo del Vesuvio, continuiamo a costruire case sui fianchi del Vesuvio, periodicamente si risveglia il vulcano e così si risveglia periodicamente l'essere umano e ritorna ad essere rigorosamente l'animale pericoloso che è sempre stato. Non c'è differenza che lo faccia col cavallo di legno con i droni. Quel che sta accadendo in Ucraina adesso è naturale. Ciò che non è naturale, per esempio, è oggi essere qui a parlare in maniera così civile. Va bene che accada, naturalmente, deve essere così, però ci siamo convinti che questo è naturale. L'umanità non vive così. I suoi sentimenti, le ambizioni, i desideri, gli odi, i rancori non sono questo. siccome non leggiamo più libri, abbiamo dimenticato una memoria. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si intitola francamente l'omaggio teatrale all'attrice Franca Rame in occasione del 10° anniversario dalla scomparsa. Lo spettacolo documentaristico ha come tematica gli ostacoli che la donna affronta nella società e di cui Rame ha sempre parlato e scritto. Appuntamento a Trieste al Teatro Miela alle 20:30. I testi sono stati riadattati da Petra Blaskovic. L'abbiamo intervistata per chiederle quale messaggio voleva trasmettere con Francamente. Traiamo sempre esempio dalla vita degli altri, credo, e Franca è come se avesse vissuto decine di vite grazie all'impegno che aveva quotidiano, quindi penso che raccontare la sua forza, il fatto che non sia mai voluta rimanere una vittima, ma dalle difficoltà è sempre risorta utilizzando il teatro, utilizzando l'arte per esprimersi e per dare coraggio e voce a tutti quei temi che si preferiscono mettere sotto il tappeto, ecco questo, un messaggio di trarre ispirazione da coloro che hanno avuto una vita non facile, ma che non hanno mai mollato. E sicuramente un grande omaggio alla cultura italiana. Qual è secondo lei l'aspetto di Franca Rame che più la attira? In una maniera molto personale mi attira la sua tradizione teatrale all'interno della famiglia, questo sentire il teatro in una maniera ereditata, quasi nel DNA, ha piantato il DNA e modificato nel corso dei secoli affinché senta il teatro in una maniera diversa da una persona che si avvicina senza che ne abbia mai fatto parte prima, insomma. E questo ha molte similitudini con la mia famiglia, che è una famiglia di artisti, è una famiglia attivista, quindi questa consapevolezza quotidiana della scelta di dire la propria, indipendentemente dalle conseguenze, e sentirsi liberi quando si può dire quello che si pensa. A Gorizia oggi la consegna del premio dedicato ai santi patroni Ilario e Tiziano. Il riconoscimento della città è stato consegnato alla professoressa docente di geopolitica Maria Paola Pagnini per aver contribuito alla fondazione del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche dell'Università di Trieste, con sede appunto a Gorizia. Gorizia ricorda la solennità dei santi patroni Ilario e Tiziano con il pontificale celebrato nel Duomo dall'arcivescovo Carlo Maria Redaelli davanti ai fedeli della diocesi e alle autorità cittadine con in testa il sindaco Rodolfo Ziberna. Una celebrazione dove il presule nell'omelia ha voluto ricordare come il capoluogo isontino sia diventato, sia per la sua storia, sia per i suoi luoghi, una città della pace, della giustizia, della fraternità, del perdono e della riconciliazione. Su questa strada, ha concluso Redaelli, si sono compiuti diversi passi in questa direzione ed è giusto riconoscerlo. Anche Nova Gorizia e Gorizia Capitale Europea della Cultura nel 2025 andranno sicuramente alla ricerca di una maggiore cooperazione transfrontaliera. Successivamente sono stati consegnati a Palazzo De Bassa i premi patroni 2024, riconoscimenti che quest'anno sono andati alla professoressa Maria Paola Pagnini e all'artista goriziano Franco Dugo. La docente universitaria fu la prima accademica ad organizzare il corso di laurea in scienze diplomatiche nel 1989, individuando Gorizia come luogo di incontro tra due mondi allora molto lontani, convincendo l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti che bisognava prepararsi ad un cambio epocale nelle relazioni tra Est e Ovest. Le grafiche, la pittura e le incisioni di Franco Dugo hanno partecipato alle rassegne più importanti a livello nazionale ed internazionale, tanto da ricoprire, verso la fine degli anni Ottanta, il ruolo di docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Venezia e di Firenze. Le sue opere si trovano in collezioni private in Italia e all'estero e in molte gallerie d'arte moderna e contemporanea. Gorizia, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. Domani l'Udinese riceverà allo Stadio Friuli il Torino, fischio d'inizio alle 15. Obiettivo della squadra è restare sulla scia del successo ottenuto contro la Lazio. Basket di A2 al Palagesteco. Cividale ieri sera ha battuto Torino per 78-68. Quinta vittoria consecutiva per la squadra di Pillastrini. Si giocava il recupero della terza giornata della fase ad orologio. quasi in scioltezza, con una difesa asfissiante contro la squadra più in forma del torneo. Nel fortino del Palagesteco, Cividale batte anche Torino, quinta vittoria di fila per la squadra di Pillastrini, che nella fase a orologio contro le squadre del girone verde ha sempre vinto, come solo Udine ha fatto finora, da quando l'allenatore ha ottenuto nuove armi, Lembe Campani, e ha spostato lo scudiero rota per dare più energia dalla panchina. La stagione è svoltata per i gialloblu, nuova partenza sprint. La guardia americana firma la prima mini fuga con 7 punti di fila e a inizio secondo quarto la tripla di Redivo fa più 13. L'argentino, dopo alcune partite più riflessive, torna alla macchina da canestri e soprattutto centro gravitazionale attorno a cui ruota tutto, guadagnando falli che saranno utili nella ripresa. Torino, pur litigando dalla lunetta, riesce a tornare comunque a meno 5 alla pausa lunga, ma bastano 4 minuti di super Redivo per mettere in chiaro che la magia non è affatto finita, anche se Thomas e Schina riescono sempre a riportare la squadra di Franco Ciani vicina. Marangon scaccia la paura, anzi no, perché Torino ci mette Pepe con la guardia napoletana che rimette gli ospiti a contatto 66-62. Da quel momento Cividale segna solo su tiro libero, una marea di ottime azioni che sfruttano il metro arbitrale e una difesa avversaria troppo aggressiva. 78-68 il finale, 31 per Redivo e salvezze playoff che non sono mai stati così vicini, anche se dopo la pausa servirebbe anche qualche risultato dagli altri campi. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla Coppa del Mondo di Biathlon, penultima gara di stagione per Lisa Vittozzi, che sarà impegnata nell'inseguimento sulle nevi canadesi di Conmore. La sappadina, reduce dalla vittoria nella sprint di giovedì sera, partirà per prima nella gara di stasera in una prova che potrebbe essere rilevante per la conquista della Coppa del Mondo generale. La carabiniera 29enne è attualmente seconda in classifica, soli 7 punti dalla leader, la norvegese Ingrid Thunderwold. La prova inizierà alle 18:10, ora italiana. E riapriamo la pagina della cultura. Si intitola Globesity, la fame del potere, l'ultimo libro, un romanzo, scritto da Andrea Segre, docente di economia circolare e fondatore del movimento Spreco Zero. Tra le pagine, l'ipotetica vicenda di una nuova pandemia generata da una molecola in grado di modificare il metabolismo umano, che può innescare il pericolo della bomba calorica. Segre presenterà il libro a Gorizia, alla Mediateca Casiraghi alle 17:30. Lo abbiamo intervistato per chiedergli qual è il rischio nel mondo reale della bomba calorica. Il sovrappeso e gli obesi sono più del doppio, 1.600.000.000 di persone rispetto a chi ha fame, che sono soltanto, fra virgolette, 800.000.000. Le stime sono che più di metà in pochi anni della popolazione mondiale soffrirà di questa patologia, perché di fatto è una malattia che poi ha delle conseguenze anche economiche. Quindi io, con una fiction, perché è un romanzo inventato, però molto realistico, perché potrebbe succedere, cerco di porre proprio l'attenzione su questo tema molto importante. Viviamo in un'iperbola alimentare, ci saziamo magari di fotografie, parliamo tanto di cibo, però alla fine, per fare un esempio molto concreto, la dieta mediterranea la troviamo ovunque, patrimonio mondiale dell'umanità, e nessuno di noi in Italia la pratica veramente. Adesso in libreria proliferano i libri di cucina, sono tantissimi, siamo un po' ossessionati dal cibo? Molto, gli chef che spadellano non solo nei ristoranti, qui andrebbe bene, ma in TV, ho contato più di 70 programmi televisivi dove fanno vedere che la cucina è competitiva, e peraltro non è competitiva, ma quello che è più preoccupante ancora e che sono di più i libri sulle diete. Paradossalmente si spende di più per mettersi a dieta che per mangiare, che è una contraddizione. Come si esce dall'insidia della bomba calorica? Con l'educazione alimentare, essendo solo consapevoli e sapendo che non c'è una dieta, diciamo, per tutti, ma una dieta personale. La dieta mediterranea ci insegna anche la frugalità, è inutile mangiare troppo se non ne abbiamo bisogno. Purtroppo a scuola non si insegna più il valore del cibo, ed è un paradosso che proprio nelle scuole, nelle mense scolastiche, si sprechi veramente tanto cibo. Mingus, la storia di un mito, è il prossimo appuntamento della stagione musicale curata da Euritmica, che proporrà uno spettacolo tra musica e parole, con al centro la figura di Charles Mingus, ribelle, antirazzista, anticonformista, ma soprattutto uno dei più talentuosi musicisti della storia del jazz, di cui ricorre il centenario dalla nascita. Sul palco il Quinto Rigo, di cui state ascoltando in sottofondo un brano ispirato al compositore statunitense, con Gino Castaldo, giornalista e critico musicale, tra i pochi ad aver incontrato il grande maestro. Si ascolteranno pagine memorabili con arrangiamenti innovativi per una rilettura moderna della musica di Mingus. Appuntamento a Cervignano, al Teatro Pasolini, alle 20.45. Ancora teatro, l'attore Joelle Dix renderà omaggio a Giorgio Gaber nello spettacolo Ma per fortuna che c'era il Gaber, a Casarsa della Delizia, al Teatro Pasolini, alle 20.45. Paolo Hendel sarà protagonista dello spettacolo Niente Panico a Polcinigo, al Teatro Comunale, alle 21. La compagnia Il Teatro delle Arance proporrà un adattamento dell'opera manzoniana I Promessi Sposi a Cordenons, nel Centro Culturale Aldo Moro, alle 20.45. Lo spettacolo The Substitute della clown austriaca Anna Delirium sarà in scena a Trieste, ad Hangar Teatri, alle 20.30. La commedia Vicini di casa sarà rappresentata a Zoppola, all'Auditorium Comunale, alle 20.45. Nell'Auditorium del Museo Revoltella a Trieste è in programma la presentazione dell'album Come un soffio del coro Vos de Mont, con la voce narrante di Massimo Somaglino, alle 19. Ed ora le nostre rubriche. Domani su Rai 3 andrà in onda Est-Ovest, la trasmissione dedicata all'Europa centro-orientale. L'aumento dei prezzi degli aerei per il turismo è un problema, per gli immigrati un dramma. Le donne in Bielorussia, i diritti e la parità di genere negati nel paese dell'autocratico presidente Lukashenko. La Macedonia del Nord, malgrado i ricatti politici dei vicini, continua nel suo faticoso percorso di integrazione europea. In autunno gli sloveni decideranno in un referendum se costruire un secondo reattore nella centrale nucleare di Krško. Faruk Sehic, scrittore bosniaco, reduce di guerra, racconta le sue esperienze nel romanzo Il mio fiume. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E domani mattina, dopo il GR, andrà in onda anche Vita nei campi. Questo notiziario finisce qui alle 12.57 e 40 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Viola Romanese e da Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.